Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Innamorarsi di un gay sposato. Ciao Project, leggo i tuoi siti da molto tempo e mi hanno aiutato parecchio. Mi chiamo Maurizio, ho 26 anni e penso di avere una marea di problemi legati alla sfera del sesso. Faccio una vita apparentemente normalissima, mi sono laureato da poco e anche ho trovato lavoro. So benissimo che di questi tempi è difficile e che sono stato fortunato e tra l'altro faccio un lavoro che mi piace. Da quando ho cominciato a lavorare non vivo più a casa dei miei, ma con un po' di soldi che loro mi hanno prestato ho comprato una mini casetta in campagna vicinissima al posto dove lavoro e ci vivo da solo ormai da 10 mesi. La solitudine non mi pesa, esco di casa la mattina alle 6 e torno dopo le 7 di sera. Pranzo e cena in mensa, non cucino, ho internet e dalle 8 di sera navigo in rete. Praticamente ho scoperto i tuoi siti quando sono andato a vivere da solo. Avevo pensato quasi subito che mi sarebbe piaciuto parlare un po' con te, ma poi mi sembrava una cosa imbarazzante e allora ho lasciato perdere. Però leggendo ho trovato molte cose che mi hanno un po' chiarito le idee, ma ogni volta che leggevo qualcosa che mi interessava direttamente mi dicevo che avrei dovuto scriverti, però alla fine non lo facevo. Ti potrà sembrare strano, ma non ho mai potuto parlare seriamente con nessuno di cose riguardanti la sessualità. A casa mia l'argomento è sempre stato tabù, ma non solo riguardo ai gay, ma riguardo a tutta la sessualità. Non ho mai avuto amici, piuttosto conoscenti, ma non erano certo ragazzi con i quali avrei potuto parlare di cose riguardanti il sesso. Fino a 21 anni non avevo nemmeno internet, sentivo qualcuno che parlava di tutto quello che ci si poteva trovare, ma mi sembravano cose sporche per depravati, e così mettevo da parte la questione, anche se ho sempre saputo di essere gay, diciamo che la cosa l'ho considerata come una cosa negativa, che mi era capitata e che mi sarei dovuto tenere. Io allora usavo un'espressione molto particolare, mi dicevo è una specie di angolo patologico al quale mi dedico solo nei momenti di autoerotismo e che mi devo tenere esattamente così com'è, e anche con grossi sensi di colpa tra l'altro. In pratica, fino a 21 anni ho sempre cercato di reprimere la mia omosessualità attraverso lo studio, ma ovviamente quello che uno è viene comunque a galla. Diciamo così, non mi accetto nel senso pieno del termine. Quindi fino ai 21 anni ho cercato di negare a me stesso di essere gay, anche se quelle cose le vivevo attraverso la masturbazione, che però mi attirava e nello stesso tempo mi creava una marea di complessi, come se in pratica io stessi distruggendo la parte migliore di me per lasciare invece spazio alla parte gay. Adesso so che tutte queste cose sono assurde, ma allora ragionavo così. A 21 anni le cose sono cambiate. Ho avuto il primo computer collegato a internet e sono diventato sesso dipendente. In pratica passavo le nottate a vedere foto e video porno, e anche qui c'è stata un'evoluzione. All'inizio ansia e sensi di colpa, poi mi sono scatenato, ma col tempo l'interesse è andato calando. I primi tempi mi sentivo eccitatissimo anche solo a pensare che mi dovevo mettere al computer a vedere dei porno. Poi, nel corso di un paio d'anni, le cose sono cambiate, fino al punto che in pratica i video, non dico che non mi facevano più nessun effetto, ma quasi. E comunque ne vedevo molto di meno ed ero diventato molto selettivo. Su 100 me ne potevano interessare forse 2 o 3. Poi c'è stata la fase delle chat, diciamo che ho cominciato a 22 anni, un po' come per i video porno, all'inizio una curiosità enorme, ma qui era diverso perché qui mi dovevo esporre e non lo volevo fare. Le primissime esperienze sono state squallide, proposte oscene e basta. Ma non ho desistito e finalmente ho incontrato Stefano, che non ha fatto come tutti gli altri. Ne avevo provati in chat almeno una 30, diciamo. Mi diceva lui una marea di cose belle che mi piacevano molto. Dopo diverse settimane di lunghissimi colloqui giorno e notte, dato che lui non faceva nessuna proposta come facevano tutti gli altri, ci ho provato io. Gli ho chiesto di andare in cam, ma non ha voluto. Insomma, la cosa mi ha spiazzato, non capivo perché. Ho pensato che mi stesse imbrogliando, ma non riuscivo a capire il senso, perché se avesse voluto approfittare della situazione avrebbe potuto andare direttamente al sodo, e invece non succedeva, e anzi più passava il tempo, meno si parlava di sesso, e poi non aveva proprio niente che mi facesse pensare male. Ho insistito diverse volte perché si facesse vedere in cam, ma non lo ha mai fatto. Dopo circa 6 mesi che ci conoscevamo, è proprio sparito e non l'ho più sentito. Non ho la più pallida idea del perché, le ho pensate tutte, che fosse un uomo grande, anche se mi aveva detto di avere 24 anni, che fosse magari un uomo sposato oppure un prete, non lo so. La storia di Stefano mi ha scombussolato parecchio, forse di lui mi sarei anche innamorato. Ancora adesso, qualche volta, mi rileggo i testi delle conversazioni con Stefano e resto colpito dal livello del discorso, che non aveva nulla del classico dialogo della chat erotica. Al tempo della chat con Stefano, che è durata più di 6 mesi, non avevo cercato nessun altro, poi ho ricominciato. Poco dopo il mio 23° compleanno, dopo una marea di cose squallide, ho conosciuto un ragazzo di Alessandria, chiamiamolo Marco. Non era del livello di Stefano, ma mi sembrava un bravo ragazzo e non abitava nemmeno troppo lontano da casa dei miei. Io allora vivevo con loro. Con Marco le proposte concrete sono arrivate. Era anche tutto sommato un bel ragazzo, o almeno un ragazzo passabile. Diciamo che ho perso una marea di tempo a cercare di convincermi che con lui in effetti qualche cosa si sarebbe pure potuto combinare, però per me non era realmente attraente dal punto di vista sessuale. Diciamo che quando l'ho visto in cam ho smesso di masturbarmi pensando a lui, e questo in fondo dice parecchio. Che avrei dovuto fare? Avrei dovuto dire la verità, lo so benissimo, ma non l'ho fatto. Non ho fatto niente del genere, avevo paura che se ne andasse. Con lui stavo bene, se si tratta di parlare, in un certo senso era un amico, ma per lui la cosa non si poteva fermare lì. Lui insisteva, io scappavo, cercavo scuse, ho tirato avanti così, tenendolo sulla corda per un paio di mesi, e alla fine mi ha fatto un altolà e mi ha detto: "Se non ne vuoi sapere, me lo devi dire", ma io non ho avuto la faccia di dire le cose come stavano e abbiamo combinato un appuntamento. Ci siamo visti un pomeriggio, dovevamo andare in una casetta di campagna vicino Alessandria. Visto di persona non mi attirava per niente, gli ho detto che non me la sentivo. Allora lui ha cercato di insistere, ma io mi sono girato e mi sono messo a correre. Sono proprio scappato via nella maniera più vergognosa, lui non ha nemmeno provato a seguirmi. A casa ho visto che mi aveva bloccato su Messenger. Questa è stata la mia avventura più coinvolgente con un ragazzo, almeno fino a poco tempo fa. Adesso hai capito che contatti ho avuto con i ragazzi gay. Dopo la storia di Marco, ne ho pensate di tutti i colori. Mi sono chiesto se sono gay, se sono un caso patologico, se non fosse il caso di provare con una ragazza, ma per me è proprio un terreno assolutamente sconosciuto. E poi sono cose che non mi sono mai passate per la testa. A questo punto della vita ero nella confusione più totale, anche perché mi è accaduto un fatto che non avrei mai immaginato. Da 5 mesi è venuto a lavorare con me un ragazzo di 27 anni, chiamiamolo Andrea, che è proprio l'incarnazione del mio ideale di uomo. Credo di non aver mai visto uno più bello di lui. Per un suo sorriso io darei l'anima. Ha una voce così dolce che mi scombussola le budella. Ho anche occasione di parlarci e quando succede mi sento proprio sconvolto. È Andrea la vera ragione per cui ti scrivo, Project, perché mi sta proprio sconvolgendo. Nel bene e nel male non so nemmeno dirtelo la vita. Io per lui farei pazzie. Ho cominciato ad esplorare un po' il terreno. Forse è presto per dirlo, ma ho tutta l'impressione che lui sia interessato a me. Mi cerca, mi sorride, mi tratta proprio in modo affettuoso, ma c'è un problema enorme. Andrea è sposato da 5 anni ed ha anche un bambino. Nelle nostre conversazioni non me lo ha mai detto e qui dove lavoro non lo sa nessuno, ma io l'ho saputo con certezza per vie traverse. Se Andrea fosse etero al 100% finirei per togliermelo dalla testa. Di ragazzi bellissimi ce ne sono tanti e lui sarebbe uno dei tanti che con me non possono avere nulla a che vedere, ma io penso che Andrea non sia veramente etero. Non è una cosa che io spero, è una cosa che io penso motivatamente sulla base di tanti elementi che mi ha fornito e credo che me li abbia forniti a ragion veduta. Project, cerca di capire, non sto fantasticando. Io ho proprio l'impressione nettissima che Andrea stia cercando di dirmi questo in tutti i modi, ogni volta che ci troviamo insieme. Non ci si riesce mai, ma ci sta provando e io mi sento in grossissime difficoltà. Non è tanto il fatto che io me ne possa innamorare che mi fa paura, quanto il fatto che lui si possa innamorare di me. Io, per me, anche a costo di spaccarmi il cuore, potrei sempre fare in macchina indietro. Ma se lui perde la testa, dove andiamo a finire? Andrea non è un frequentatore di chat, ma è un uomo sposato. Secondo quello che penso io, è un uomo sposato gay che si sente disperatamente solo e sta cercando di costruire qualcosa con me. E io non so che fare, ho paura di questa situazione, non so se me la sentirei di affrontare una situazione simile, non so nemmeno da dove cominciare. Project, diciamo che di quello che ho detto io sono sicuro al 99%. E credo che a un discorso esplicito con Andrea ci arriveremo anche molto presto, ma temo che anche lui possa essere spaccato in due dentro. Ma perché un uomo sposato con un figlio evita del tutto qualunque accenno alla famiglia? Dovrebbe essere una cosa bella, e invece non ne parla mai con nessuno. Del fatto che è sposato e che ha un figlio, ne sono assolutamente sicuro. Non è una mia idea, una mia possibilità, una fissazione. Mi chiedo se sia moralmente onesto per me allontanarlo dalla sua famiglia, standolo a sentire, magari offrendogli anche una possibilità di buttare fuori tutto quello che si porta dentro. Per me è una persona importantissima e ti dico che penso a lui dalla mattina alla sera, ma accetterei anche di non vederlo più pur di non rovinargli la vita. Ma lui mi cerca, io ho l'impressione di essere io ormai una presenza importante per lui. Ecco, sono arrivato alla fine della storia. Project, ti prego, cerca di dare per scontata l'idea che Andrea non è etero, o almeno non è etero al 100%. Dimmi che cosa faresti tu, perché ho proprio bisogno di un confronto serio. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.